Storie italiane. Hansel e Gretel. C'era una volta un povero taglialegna che viveva dentro una grande foresta con la moglie ed i suoi due figli. Erano così poveri che il padre non riusciva nemmeno a fornire il loro pane quotidiano. La loro madre, infine, morì a causa di una malattia. Mamma! Dopo la morte della moglie, il taglialegna adempiva a tutte le faccende domestiche. Decise di prendersi cura dei due bambini. A causa di questo, non riusciva a guadagnare. Oh, mio caro, ti ho detto tante volte che ti devi riposare per il bene dei bambini. Solo una donna può prendersi cura dei tuoi bambini, così puoi tornare nel bosco a lavorare come prima, altrimenti morirete di fame. Penso che abbia ragione. Ho deciso, seguirò il suo consiglio. Il taglialegna si sposò. Sia lui che i suoi figli erano molto felici. Mia cara, tu ti prenderai cura dei bambini. Così io tornerò a lavorare. Si incamminò per andare al lavoro. Muovetevi, bambini, si va a tavola! Hansel e Gretel si precipitarono verso il tavolo da pranzo e cominciarono a mangiare. Mammina, posso averne ancora un po'? Per favore! No, non ne avrai, sei una bambina viziata. Pensi sempre solo a mangiare tutto il tempo. Invece di dare del cibo ai bambini affamati, la matrigna mangiò tutta la zuppa. Prendi, Gretel. Ma se quello è il tuo, mangialo pure tu. Gretel, oggi non ho fame. Prendilo, per favore. Hansel diede tutto il suo cibo a Gretel. Ah, fratellino. Hansel era molto triste a causa del comportamento maleducato della matrigna. Pensava sempre alla sua mamma. E guardava il cielo cercando tra le stelle la sua dolce mamma. Mi manchi, mamma. Desidero che tu torni da noi per abbracciarci. Hansel! Il taglialegna era sempre al lavoro. Stava lavorando molto duramente, ma non riusciva a vendere il legno perché i commercianti, a causa della forte pioggia, non riuscivano a raggiungere la foresta da settimane. Un giorno la matrigna si arrabbiò e litigò molto con lui. I tuoi figli sono sempre affamati e mangiano di continuo. Non hai guadagnato un solo centesimo in queste settimane. Come faccio a comprare del cibo e a cucinarlo? Tua figlia è avida. Cerca sempre da mangiare, ma non è possibile! Cosa posso fare, mia cara? Io non posso vendere la legna in questi giorni di pioggia. Perché non vai subito in città e vendi? Sì, questa è davvero una buona idea. Lo farò e porterò con me dalla città tante provviste per te e i bambini. Il mattino seguente, il buon padre partì per vendere la legna. La matrigna escogitò un piano diabolico per liberarsi una volta e per tutte dei due piccoli bambini. Se questo piano funziona, io non dovrò più badare a quei due stupidi bambini e lavorare per loro. Vivrò felicemente con mio marito e darò alla luce il mio bambino. Oh Hansel! Oh Gretel! Vado nella foresta a raccogliere alcuni frutti di bosco e dei funghi. Venite con me! Hansel era furbo e intelligente. Era dubbioso per la proposta della matrigna. No, mamma, non vengo. Raccogliamo i frutti di bosco, su via. È necessario mangiare, Hansel. La mia bambina, Gretel, devi essere molto affamata. Non vuoi mangiare alcune bacche fresche? Andiamo, fratellino, per favore. Ti prego. Voglio vedere la foresta e mangiare tutti i frutti di bosco. Va bene, Gretel, andiamo. Forza, bambini, prendiamo i cestini. Muovetevi, piccole pesti. Hansel si ricordò l'indicazione che gli diede la sua vera madre per segnare la strada nella foresta, così da non perdere la strada e tornare a casa. Hansel raccolse alcuni sassolini e li mise nel cestino. I ciottoli potevano luccicare di notte. Tutti insieme si incamminarono nella foresta. Hansel faceva cadere i ciottoli sulla strada che attraversava la foresta. Raggiunsero il centro della foresta. Hansel, sono molto stanca. Quanto dovremo camminare ancora? Voglio riposare un pochino. Ok, Gretel. Oh, mamma, non possiamo fermarci qui per un po'. Siamo stanchi. Questa è una buona occasione. Va bene, tesoro. Riposatevi sotto questo albero. Io vado a raccogliere delle bacche. Mamma, ma come facciamo a trovarti? Oh, non ti preoccupare, Hansel. Tornerò presto. Prenditi cura di Gretel. Tornerò. La cattiva matrigna se ne andò, lasciando soli i due piccoli bambini. Gretel si addormentò. La matrigna, infine, rivelò le sue vere intenzioni. Si diresse verso casa e decise di lasciare i bambini nella foresta. Nel frattempo, Gretel si svegliò e cominciò a cercare la matrigna. Hansel, dov'è la mamma? Voglio andare a casa, ho fame! Mamma! Dove sei, mammina? Non ti preoccupare, Gretel. Lei tornerà presto. Una scimmia saltò dal ramo di un albero, teneva in mano un po' di frutta. La scimmia diede loro della frutta. Oh, come sei dolce, scimmietta! Tutti insieme mangiarono la frutta. La matrigna giunse a metà strada e vide a terra i ciottoli. Ah, deve essere stato Hansel a lasciare questi ciottoli. Mossa intelligente, li toglierò dalla strada. Mise i ciottoli su un altro percorso per poterli sviare. Imparerai una lezione di vita, ragazzino intelligente. I bambini aspettarono a lungo, ma la madre non tornava. Il sole era tramontato e infine giunse la notte. Dov'è la mamma Hansel? Come faremo a tornare a casa? Ci siamo persi nel bosco! Anche Hansel era spaventato, ma ben presto si ricordò che aveva lasciato i ciottoli lungo la strada. Andiamo! Si alzarono e cominciarono a cercare i ciottoli. Cercavano qua e là, ma non riuscivano a trovarli. In quel momento la scimmia scese dall'albero e prese per le mani Hansel. Gli mostrò i ciottoli. I ciottoli brillavano al chiaro di una luna splendente. Non piangere, Gretel. Fidati di me. Ti riporterò a casa, anche se la mamma non torna. Vieni, andiamo. Dopo aver camminato per molto tempo, i ciottoli erano finiti. Non c'erano più sassolini che brillavano lungo la strada. La foresta divenne oscura e veramente buia e pericolosa. Dove sono i ciottoli? Ho tanta paura, fratellino! Non aver paura, mi prendo io cura di te. Dopo aver camminato per molto tempo, erano molto stanchi ed affamati. Alla fine spuntò il sole. Videro un uccellino che cantava su un albero. Ascoltarono insieme il cinguettio dell'uccellino. Dopo un po' l'uccellino volò via. Hansel e Gretel lo seguirono. L'uccellino si posò sul tetto di una casa di cioccolato. Guarda là, Hansel! Una casa di cioccolato! Wow, guarda qui! Questa è fatta di biscotti! La porta è fatta di gelatine! Il tetto è fatto di marzapane! E le finestre sono fatte di zucchero e canditi! Dai, mangiamoli! Staccarono un pezzo enorme dal muro e cominciarono a mangiarlo. Hansel e Gretel rosicchiavano come tanti topini affamati. È buonissimo! Ho tanta fame, Hansel! Io mangerò tutta questa casa! Mentre mangiavano, sentirono un rumore. Qualcuno aprì la porta. Una vecchia donna che sembrava malata venne fuori. I bambini tenevano stretti quei dolcetti nelle loro mani. Chi siete? Cosa ci fate qui? Perché state mangiando la mia casa? Ci dispiace, ma abbiamo tanta fame. Ci siamo persi nel bosco. Oh, poveri bambini! Siete così affamati e stanchi! Entrate, la nonna vi darà del cibo. Mi prenderò io cura di voi. La vecchia li prese per mano e li portò dentro. La vecchia preparò una tavolata di cibo usando la sua bacchetta magica. Wow! Cibo! Entrambi i bambini mangiarono. Bambini, siete stanchi? Andate a dormire! Videro un letto morbido e accogliente. Grazie, nonna! Ma ora è troppo tardi! Sì, nonna! Dobbiamo andare a casa! A presto e grazie ancora per il tuo gentile aiuto! Hansel e Gretel stavano per aprire la porta quando la nonna lanciò un incantesimo sulla porta e questa si bloccò. Oh! La vecchia si trasformò in una terribile e temibile strega. La strega fece un altro incantesimo. Mise Hansel dentro la gabbia. Liberami! Dai! Liberami! Hansel! Hansel! Su, bravo bambino! Mangia in grassa! Ho intenzione di fare un buon pasto con te! E tu, bambina, inizia a pulire la casa! La strega aveva una vista molto debole, così fece di Gretel la sua serva. La strega cominciò a dare tanto cibo ad Hansel, così da farlo ingrassare per poterlo mangiare. Nel frattempo, la madre tornò a casa e si stupì nel vedere il marito. Dove sei stata? Dove sono i bambini? Io... Dimmi cos'è successo, cara. Dove sono i miei figli? La matrigna si vergognò delle sue azioni e gli raccontò tutta la verità. Non posso crederci! Come hai potuto fare questo? Non meriti di essere una madre! Mi dispiace per i bambini, ma non è troppo tardi. Andiamo verso la foresta e cerchiamoli. Ok, andiamo. Oh, Hansel! Entrambi si incamminarono nella foresta per cercare i bambini. Oh, Hansel! Ogni giorno la strega si avvicinava alla gabbia per controllare Hansel. Mostrami le tue dita, Hansel! Fammi sentire come sei diventato bello grasso! Hansel era molto intelligente. Sapendo che la strega non ci vedeva bene, faceva toccare delle ossa di pollo al posto delle sue vere dita. Hansel, perché non riesci a ingrassare, stupido ragazzino? Ti mangerò comunque oggi stesso! Mangerò questo stupido ragazzino! Non posso più aspettare! Sto morendo di fame! Gretel sentì la strega ed ebbe molta paura. Oddio! Salva il mio fratellino! Devo fare qualcosa e lei non deve fargli del male! La strega prontamente mise sul fuoco una grande pentola d'acqua per preparare la zuppa. Gretel capì che la strega voleva davvero mangiare Hansel. Vieni, bambina! Vieni ad accendere il fuoco! Io non so come si accende! Ah, allora lo farò io! La strega iniziò ad accendere la legna da ardere. Mentre bruciava la legna, grandi fiamme venivano fuori dal camino. Vedendo queste fiamme luminose, a Gretel venne in mente un'idea per salvare suo fratello. Questa è l'ultima possibilità di fuga! Devo fare un tentativo! Lei corse dietro la strega cattiva e la spinse da dietro. La strega cadde nel fuoco e Gretel chiuse la porta di ferro. La strega morì bruciata viva nel fuoco ardente. Maledetta strega! Ora non puoi più mangiare mio fratello! Gretel vide il bastone magico della strega. Lo afferrò e con la magia liberò Hansel. Gretel! Hansel! Entrarono nella stanza della strega e videro tanti forzieri pieni d'oro, molte statue, manufatti magici tutti esposti nella camera. Oh, Gretel, dammi la bacchetta magica che li apro! Gretel gli diede la bacchetta. Hansel iniziò ad aprire i forzieri, uno per uno. C'erano perle, pietre preziose, oro! Prendiamo queste casse! Aspetta, cosa sono quelle strane statue? Sembrano dei bambini! Hansel girò il bastone magico intorno alle statue. Con loro grande sorpresa, le statue iniziarono a prendere vita e la magia svanì. Oh, grazie amici! Avete dimostrato grande coraggio! Prego! Ma adesso scappiamo da questo terribile posto e lasciamo la foresta! Tutti i bambini uscirono dalla casa della strega. Ma, fratellino, noi non conosciamo la strada, non possiamo camminare! Non devi camminare! Hansel ruotò il bastone magico, così apparvero delle scope. Scope magiche che fluttuavano dolcemente nell'aria. Sì! Possiamo volare! Possiamo volare! I bambini, seduti sui manici di scopa, cominciarono a volare in cielo sopra le nuvole. Improvvisamente udirono una voce familiare. Dove sei, Gretel? Oh, Hansel! Oh, Gretel! Guarda, Hansel! Sono i nostri genitori! I bambini, tutti contenti, corsero verso i genitori. Papà, mamma, siamo qui! Papà, mamma! Sono così felice di vedervi, figli miei. Vi ho cercato per così tanto tempo. Dove eravate? Dove eravate? Oh, Hansel, oh, Gretel, mi dispiace per quello che ho fatto. Perdonatemi, per favore. Va bene, mamma. Questo era il piano di Dio per liberarci dalla povertà. Cosa? Che vuoi dire? I bambini mostrarono il tesoro e raccontarono tutta la storia ai loro genitori. Tutti erano felici e tornarono alle loro case. E vissero tutti felici e contenti.